Radio 24 Reportage. Giovani, europei e disoccupati, di Sergio Nava. Hello and very welcome. On behalf of the network of pan-European radio stations, Euronet. Un giovane su cinque in Europa è disoccupato. La crisi economico-finanziaria colpisce pesantemente proprio le fasce più deboli della popolazione, chi oggi ha 20 anni o poco più. Lo fa con gradazioni diverse tra un centro-nord Europa che o contiene entro certi limiti il problema oppure in casi di successo riesce addirittura a limitarlo al minimo. E invece un'Europa del sud e dell'est che fatica molto di più a porre un freno al boom dei giovani disoccupati. Questi temi sono stati al centro di un dibattito paneuropeo organizzato nella sede dell'Europarlamento di Bruxelles dalla rete di radio continentali Euronet. Connect.Euronet, il primo portale per giovani studenti universitari europei facente capo al network, ha riunito per un pomeriggio gli universitari provenienti da 7 atenei europei insieme al commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor e a 4 eurodeputate. Giovani e disoccupazione, flessibilità contrattuale e migrazione dal proprio paese di origine per motivi di lavoro. Questi i temi al centro di un dibattito sul cui sfondo è rimasto l'impegno finale della Commissione europea a garantire entro il 2020 un lavoro al 75% della popolazione attiva. Un obiettivo possibile? Sì, risponde Bruxelles, ma solo se la ripresa sarà più bilanciata e più dinamica sul fronte occupazionale. Nel corso della prima tavola rotonda, il commissario all'occupazione Andor ha messo sul piatto l'idea di un single open-ended contract che porti da una situazione di iniziale flessibilità contrattuale ad una finale con tutte le garanzie del caso mediante l'introduzione di coperture graduali nell'arco della carriera. Un'altra iniziativa accennata da Andor è lo European Vacancy Monitor per individuare e diffondere le ultimissime tendenze sul mercato del lavoro segnalandole ai giovani attraverso internet. L'obiettivo è colmare il gap generazionale che ha sfavorito a causa della crisi proprio gli attuali ventenni. Conclusa la tavola rotonda, abbiamo avvicinato Andor per commentare più nello specifico la situazione italiana. Nella penisola il tasso di disoccupazione giovanile resta infatti prossimo al 30%, tra i più alti d'Europa. È una questione generazionale, afferma Laszlo Andor. Dobbiamo guardare al sistema educativo e ai servizi per l'impiego. È importante pure che le autorità italiane migliorino le performance del Fondo Sociale Europeo e aggiunge l'idea di un contratto open-ended si applicherebbe molto bene all'Italia. Non a caso l'idea è vostra. Il mercato occupazionale italiano è troppo segmentato, avverte Andor prima di lasciare l'Europarlamento. Studenti e politici si sono confrontati per circa un'ora e mezza alternandosi ai microfoni di Euronet. I giovani dei campus europei hanno portato le loro domande ai rappresentanti delle istituzioni comunitarie che hanno provato ad offrire alcune risposte, ben consci però che molto lavoro va svolto ancora sul piano nazionale. E allora noi siamo andati a indagare paese per paese la situazione degli studenti che si preparano a entrare nel mercato del lavoro per farsi un giorno classe dirigente. Siamo partiti dalla Germania, isola felice d'Europa, con un tasso di disoccupazione giovanile al 7,9% e una crescita economica superiore alla media. Marco Jelic, studente di scienze politiche all'Università di Bonn, ha origini italiane per parte di madre, per cui parla perfettamente la nostra lingua. Sentiamolo. Questi giovani disoccupati sono giovani che hanno una bassa qualificazione ed è difficile, molto difficile reintegrarli o integrarli nel mondo lavorativo. Mentre invece per chi si laurea, per i laureati, il mercato del lavoro tedesco offre più opportunità? Sì, diciamo chi ottiene una laurea e ha una qualificazione accademica, diciamo che le prospettive non sono cattive. Solo che è difficile arrivare a quel punto, cioè in Germania la carriera accademica è ancora legata alla provenienza sociale. Pensate anche di andare all'estero oppure diciamo vi orientate più sul mercato tedesco? Diciamo che ci sono ricercatori che vedono più prospettive all'estero, ma io personalmente mi oriento sul mercato lavorativo tedesco perché penso che con una qualificazione alta ho delle prospettive. Come vedi l'Italia da fuori? Cioè è un paese dove vedi delle opportunità di lavoro? Mi dispiace dirlo, ma l'Italia è un paese in declino. Le prospettive in Italia non le vedo né dal punto di vista politico e neanche dal punto di vista economico. La Germania, come dicevamo, è un'isola felice nel contesto europeo, dove a pagare dazio sono soprattutto i paesi latini insieme a quelli baltici e all'Irlanda. Proprio dall'Irlanda arriva Matthew Taylor, 19enne studente di storia a Dublino. L'ex Tigre Celtica è tornata ad essere negli ultimissimi anni un paese di emigrazione con flussi in uscita soprattutto tra i giovani giovani che preoccupano le autorità locali. Most people are very frustrated because we La maggior parte dei giovani irlandesi è molto frustrata, racconta Matthew, poiché la crisi, dice, è stata generata da ricchi uomini d'affari collusi con politici e agenti immobiliari. Hanno buttato denaro pubblico in un mercato che si sapeva essere alla lunga poco sostenibile. Purtroppo ora è necessario per molti giovani irlandesi tornare ad emigrare. È molto più attraente prendere in considerazione l'idea di un impiego a Londra, a New York o a Toronto. È una scelta che alla fine potrei fare io stesso, dice, se non dovessi trovare in futuro buone opportunità in Irlanda. Inoltre temo che molti datori di lavoro non mi considererebbero per certi posti solo perché sono un laureato in storia. Comunque, conclude Matthew, non so cosa farò quando mi laureerò. È tutto così incerto. Probabilmente farò un postdoc in legge, magari cercherò lavoro nell'Unione Europea. In ogni caso me ne andrò, Londra oppure Canada. Dall'Irlanda alla Spagna, due esempi di nazioni pesantemente colpite dalla crisi. Nella penisola iberica oltre il 40% dei giovani è senza lavoro, il tasso più alto nell'Unione Europea. Ma Carmen López, 24enne studentessa di un master in musica, e Laura Creuth, coetanea di Carmen, iscritta a un corso di comunicazione audiovisiva a Salamanca, sono stanche di parole e lamentele. Vivo in Spagna. Afferma Carmen, vivo in Spagna, è chiaro che sento molto il problema della disoccupazione, ma continuare a chiamarlo problema e insistere su questo, parlando di quanto sia enorme, del fatto che non c'è lavoro, che non lavoreremo mai e che il futuro è nero e inutile, beh, alla fine occorre cominciare ad agire smettendola di parlare. Aggiunge Laura, i giovani devono cominciare a discutere seriamente con i politici, sono loro che devono fare qualcosa. Ogni giorno ci dicono che stanno trovando soluzioni, ma in realtà non capiscono i nostri problemi. È con la gente che devono parlare, con noi devono trovare soluzioni, conclude Laura. Quando chiedo loro come immaginano l'uscita dall'università, Laura e Carmen accennano una breve pausa meditativa guardandosi negli occhi. Poi Carmen prende l'iniziativa. Questa è la domanda con la quale mi alzo tutti i giorni. Se avessi voluto un lavoro stupendo e se avessi voluto diventare ricca, beh, forse mi sarei iscritta a medicina. Ho invece deciso di dedicarmi a un altro settore. Ora vivo la giornata, trovando soluzioni a breve termine. Aggiunge Laura, ora sono stagista e la gente mi chiede perché lo faccia. Penso che molti non siano disposti a ingegnarsi, soprattutto nei momenti di crisi. Se c'è un problema occorre trovare soluzioni con creatività. Credo che la creatività sì che può essere buona. Tempo di andare a est, ora tra i paesi da poco entrati nell'Unione Europea. Solo 4 anni fa la Romania faceva il suo ingresso nel club. Anche a Bucarest la crisi ha colpito, con il 23% di giovani disoccupati. Andrei Purcarea, 22 anni, è uno studente di giornalismo a Cluj, città universitaria nel cuore della Transilvania. Gli studenti rumeni hanno parecchi problemi a trovare impiego, afferma. Spesso le imprese chiedono un'esperienza lavorativa pregressa, che loro ovviamente non hanno. Gli studenti sono molto colpiti dalla crisi. Molti di loro guardano anche al programma Erasmus, solo che quando tornano trovano ad aspettarli gli stessi problemi di prima. Altri ancora optano per un master, ma è molto costoso, non tutti se lo possono permettere. Dopo la laurea non sono tantissimi quelli che scelgono di espatriare dalla Romania, anche se il prezzo da pagare è, per chi resta, fare un lavoro diverso dalla propria specializzazione. In ogni caso, conclude, le maggiori difficoltà le incontrano i giovani non qualificati. I miei coetanei rumeni guardano all'Europa come a qualcosa che li può aiutare, offrendo loro opportunità. Per questo ritengo che la migliore soluzione sia quella di fare il più possibile esperienza nell'ambito dei progetti comunitari. Dalla Romania alla Polonia, il paese più grande tra quelli dell'Europa orientale ad aver fatto il suo ingresso nell'Unione Europea a metà degli anni 2000. La disoccupazione giovanile qui supera il 25%. Kasia Gozza, 21 anni, è studentessa di giornalismo a Varsavia. Certamente lo vedo come un problema, è il problema principale in Polonia, dove la disoccupazione è in continua crescita. E Piotr Topolinski, 20 anni, è studente di filologia. Sostiene che dopo gli studi molti giovani non trovano impiego, poiché la loro formazione non trova adeguata corrispondenza con l'offerta del mercato del lavoro. Sono abbastanza patriottica, afferma Kasia. Non penso di emigrare. È meglio trovare lavoro qui. Sono qualificata e so esattamente cosa voglio fare nella vita. Abbiamo chiesto all'eurodeputata tedesca Gabriele Zimma, del Comitato sull'Occupazione e Affari Sociali dell'Europarlamento, quali impegni sta concretamente prendendo Strasburgo per aiutare i giovani del vecchio continente. Il Parlamento europeo sta facendo qualcosa, ma non abbastanza, ammette la Zimma, che prosegue. Abbiamo bisogno di un sistema comune europeo per il training, lo studio e per la prima occupazione dei giovani. Abbiamo bisogno anche di un reddito minimo che consenta loro di vivere e lavorare mantenendoli al di sopra della linea di povertà. Già, anche perché la mobilità di studio e occupazionale, uno dei grandi risultati dell'Europa degli ultimi decenni, non è sempre necessariamente positiva. Quando questa mobilità è obbligata, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.